Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presenta, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, vieni qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? Me. Oggi me. Oggi me. Oggi me. Ma che ne so? No. No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene un tuo puzzetto. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Calla, guardavo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma che è stata stronzata? Soci chi? OGM, Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi basta con tutto sto casino. La gente qua deve dormire, che si deve svegliare presto per andare a vedere i cantieri. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Carissimi amici di Runtime Radio, partiamo subito con gli errori, le cose che non dovevano succedere, che però succedono, perché quando tu provi a fare una diretta agli ultimi 5 minuti e dove durante la sigla suonano il citofono, fanno quella a destra e a sinistra, succede che non metti la terza versione della sigla ma rimetti la prima per errore, quindi avete risentito la versione iperlunga quando la versione 3.0 insomma non è stata. No, ma perché lo metti là, scusa? Cioè mettilo da un'altra parte. Scusa. Che cazzo. Va bene, con me, oltre al mio ego, c'è ovviamente Walter Sbano. Ma che è lunedì? È lunedì, sì, infatti è un lunedì che ci ha colto impreparati. Ma sarà almeno mercoledì. Magari, guarda, te do la verità, magari. Però no, purtroppo è lunedì e ci ha colto impreparati a me doppiamente, perché sono pure andato a fare ginnastica e quindi questa cosa praticamente mi ha profondamente traumatizzato. Francesco Di Muro! L'hai preso mentre sgranocchia. Zammagnà, che schifo. Marco Gualdi! Carmine Puccio Conz, No, ragazzi, dobbiamo fare un coccodrillo. Non è vero. Però Puccio, questa sera, per motivi un po', diciamo così, di salute, ma niente di grave, però diciamo un leggerissimo malessere, quindi non sarà dei nostri. Magari ci ascolterà, magari no, magari forse. E però insomma, andiamo avanti come se lui fosse con noi, con lo spirito, ecco. Con l'alcol. Come se lui fosse Antani anche. Mi ricorda quella battuta di quel film, Il Corvo, vi ricordate? No, io non l'ho purtroppo mai visto. Ha fatto male. Purtroppo Puccio non può essere con noi perché è stato colto da un lieve attacco di morte. Io pensavo, signor Gideon, lei non presta attenzione. No. Una battuta vale l'altra. C'era anche la puntata del dottor House che lui diceva: ma ce la dobbiamo curare, dobbiamo curare la morte. Non si può. E rideva. Poi in realtà il dottor House stesso ci dimostra che non è vero, perché in più di un'occasione la cura. Ma sì, poi ma il paziente muore lo stesso, perché ricordiamoci, amiloidosi, sarcoidosi, lupus. Lupus. Scartati questi, poi si cominciano a fare le diagnosi vere. Ma poi è un metodo scientificamente approvato, quello di bombardali di medicine, prima o poi qualcosa funziona. Qualcosa succederà. E poi, che poi è quello che si è fatto. Poi se gli scoppiano i reni, allora gli devi l'acqua là, là. Se gli scoppia la vescica, gli devi l'acqua quell'altra medicina là, e quindi questo è. Sì, invece di fare invece di fare la diagnosi differenziale si fanno le terapie differenziali. Esatto, differenziate anche un po' come, anche molto, molto come le cose. Vabbè, quindi Francesco, per la raccolta, come dove mettono poi il cadavere quando è affetto da morte cronica? E questo lo sa Gualdi? Come si smaltisce un cadavere, Gualdi? Beh, dipende quanto ne hai bevuto. Dipende da quante, che? Dipende da quanto ne hai bevuto. Marco ha bevuto tante. Tra l'altro, un messaggio di servizio: Gualdi è come se fosse a Mentana e il microfono a Monterotondo. Non so se mi spiego. Eppure sono esattamente a un tre dita dal microfono. Ok, ma questo per voi o in generale? Cioè, nel senso, perché guarda, io credo che possiamo chiedere aiuto ad eventuali ascoltatori in chat che si vergognino di ammetterlo. Se ci siete, perché lo so che ci siete, battete un colpo e diteci come sentite le nostre voci. Attenzione, faccio una prova. Posso fare una prova? Sei un po' bassino, Gualdi. Allora, adesso sto a 4 dita dal microfono. 2 dita dal microfono, uh-huh. 1 dito dal microfono, il prossimo passo giorno in pretura. Quindi vedete un po'. Vai. Ecco, sto parlando, ma sei tu che smanetti in maniera malmala in quel simpatico marchingegno della morte colorato. Che schifo quelle mani. Che tu pieni di diti, guarda tutti quei diti così pieni di unghie che stanno lì a zompettare tra un tasto colorato e l'altro. Hai finito? Sì, questo è il massimo che posso fare per te. Perfetto, va bene. Lo stiamo perdendo anche volendo. No. Comunque vabbè, dato che manca Puccio questa sera, cuora me lo sbabbo io, anche se in maniera molto sommaria, perché poi non è che mi metto a me a leggere. Però ci sono tante tante domande importanti su cuora, perché io durante tutta questa settimana ho raccolto tanta roba e l'ho mandata a Puccio, perché Puccio, seguendo solo i gruppi, quelli seri, psicopatici, nerdici e psicopatici, alla fine la cosa non è interessante. Invece i gruppi che seguo io sono quelli interessanti, capito? Quelli dove si fanno le domande tipo: ma tu staresti con un fidanzato povero? Che un po' è disarmante già il fatto che tu usi il termine povero, capito? Cioè, nel senso, beh, ti stai già qualificando, insomma. Senti, intanto salutiamo Luca S che dice che si sentono tutti benone, e Michela De Paola che dall'altra stanza conferma che Marco si sente bene. Ma Marco di solito dall'altra stanza questo lo dite voi che si sente bene, esatto. Io tanto bene non mi sento, esatto, io lo vedo pallidino, quindi insomma proprio fate hobbies, fate lobby. Tra l'altro, lobbies. Marco, quanto tempo è che non ti ricoveri per una appendicite che poi non ti tolgono? Esatto. È passato troppo tempo. Infatti adesso mi organizzo, andiamo al ristorante cinese, ci prendiamo un bel ramen. Tu non l'hai voluto l'altra volta? Non ci stavo pensando. Non ti ha retto la pompa? Perché poi ti sei preso una cosina sola? Che ti sei preso? Marco praticamente aveva già. Perché si era ingozzato a pranzo, ti ricordi? Ho fatto tipo il 3 ore di pranzo. Dice che stava male, sì, poverino. Non è che sta male, non c'avevo fame semplicemente. Uno che non c'ha fame sta male, soprattutto per la cultura da Roma in giù. È proprio un discorso. Vabbè, qualunque nonna ti direbbe che se non c'hai fame stai male, bisogna correre in ospedale. Lui sta cultura però non ce l'ha, però io dico sempre che ha fatto bene a non mangiare, perché tanto sennò mi chiamavano alle 11 di sera e mi dicevano: ah, Marco sta male, portalo all'ospedale. Ma soprattutto, che gli hai fatto mangiare? Che gli hai fatto mangiare tu? Che è una cosa importante. Questa cosa mi ha sempre un po' disturbato, la verità. Però vabbè, è comprensibile. Tutto. Vabbè, ma adesso magari non succede più, perché adesso che Marco è lì da solo nelle tenebre del suo lettino, potrebbe morire nel sonno. La mattina dopo ti direbbero: Marco è morto, portalo da Alessandri, per esempio, no? Guarda, non è così, perché secondo me se l'indomani trovi Gualdi morto con, che ne so, strozzato la sua stessa, che ne so, vomito, roba del genere, è sempre colpa di qualcuno. Mi avrebbe telefonato e mi avrebbe detto: che gli hai fatto bagnaio di sera? Perché è sempre così, ma non male. Tra l'altro abbiamo scoperto nell'ultima puntata di Runtime by Night che Marco... aspetta, nei miei ultimi secondi di vita scriverò col vomito sul muro Simone Pizzi. Quindi sappiate, così mi verranno a prendere, esatto. No, tra l'altro abbiamo scoperto nell'ultima puntata di Runtime by Night che Marco Gualdi aveva un fratello. Esatto. È una storia triste questa del fratello. No, vabbè, non è triste per lui, forse è triste. Perché praticamente noi abbiamo, dicevamo, delle volte in cui abbiamo fatto menare i nostri fratelli, e a un certo punto Marco Gualdi ci ha raccontato che anche lui ha fatto menare suo fratello, e noi gli abbiamo detto: ma tu non c'hai un fratello? E lui ha detto: per forza, per forza. No, bello, perché praticamente abbiamo parafrasato un sacco di film in questi momenti. Abbiamo fatto Il codice da Pizzi, perché se ci pensi inizia allo stesso modo di Gualdi col vomito, anche se insomma Sugnier, il curatore, scrive con il sangue, però insomma è quasi uguale. Il sangue e è poi uguale, dai. Questo fratello quasi segreto di Gualdi potrebbe essere una specie di rivisitazione di Gattaca, no? Potrebbe cominciare così. Gatta cieca. Comunque, gatta cieca invece. Gatta cieca. Gatta cieca è un famoso bosco della zona, sappiate. No, no, ma il titolo del film deve essere Gatta cieca, così sembra più la sequenza di amminoacidi. Niente, sono andati. Che è andato? Sono andati loro. Ah, ok. Si è spento il tablet. Scusate, aspetta, parla che li ripristino. Allora, in questo momento potrei parlarvi di tante cose, ma non so cosa dirvi, per cui vi parlerò del mio fratello che non c'è più, che era un pulcino. E quindi niente, non c'è più, purtroppo è sepolto a gatta cieca insieme alle spoglie mortali di altri fratelli di zona, insomma. Quindi sapevate, no? Se andare a gatta cieca, c'è anche il famoso film di gatta cieca, Witch Project, di come cazzo si chiama. Quindi io e te stiamo parlando. No, è tutto a posto, tutto a posto. Va tutto bene. Si è semplicemente spento il tablet, non è niente di che, insomma. No, ma va bene. Va bene, in diretta va proprio tutto bene. E quindi vi ho dovuto ripristinare tramite il PC, quindi Francesco sentirà l'eco e non riuscirà più a parlare. Vabbè, questa è la maglia. Non lo sento. Ah, ho visto, grande. Attenzione, non lo sento, entro io. Lo so, ragazzi, ma adesso vedo un attimo adattare, perché si è spento il tablet. Non so perché. Ad adattare. Era pure attaccato alla corrente, poi, capito? Quindi. Ah, si è proprio spento in senso biblico? Si è spento proprio, sì, è morto. Cioè, il coccodrillo. Mortato, dai, ok. Vabbè. Dai, tanto oramai stasera andiamo avanti così. Il tablet stava bene fino a pochi minuti fa, ma poi a un certo punto si è spento. Vabbè, intanto partiamo con Walter con Cippe. No, perché? Aspetta, prima dei Cippe, perché vedi, nel momento in cui siamo caduti, io ti avevo buttato lì un assist. Ti avevo detto, prima di addentrarci nei meandri dei tetri social, vogliamo dire cosa succede l'8 dicembre? Sì, hai ragione. Cosa succede l'8 allora dicembre? L'8 dicembre Runtime Radio spara una grandissima iniziativa, un'iniziativa benefica, quindi non ti fa male, capito Gualdi? Ci fa bene. Non ti fa male. Si tratta del tombolone di Runtime Radio. Mamma mia, quindi, ricchi premi, Cotillon, esatto, bravo. Soprattutto Cotillon. I Cotillon. E praticamente facciamo questa diretta. Cotillon senza T, però. Cotillon senza T, quindi Coyon. Jean Coyon. Praticamente facciamo questa bellissima live l'8, dalle ore 17 alle ore 19, poi vediamo insomma quanto più o meno, tra musica, gag, canzoni, cose dette, dei collegamenti telefonici, cercheremo insomma di fare un po' di tutto. E durante ovviamente questa diretta ci sarà questa tombola che insomma, per partecipare a questa tombola bisognerà fare una piccola donazione di 3 euro al Runtime Radio, e tutto quello che verrà raccolto durante questa insomma durante questa giornata, durante questa tombolata, verrà poi devoluto a Progetto Nash, che è questa associazione, questa onlus che si occupa del rintracciamento dei cani che si disperdono, che se ne vanno. Loro, tramite insomma tutto un sistema tecnico logistico, praticamente riescono più o meno a rintracciare i cani, insomma. Quindi vi aspettiamo. Poi ecco, da questa notte a mezzanotte partirà lo spot che sentirete in continuazione se ascoltate Runtime Radio, e poi cercheremo di metterlo anche nei podcast e cercheremo anche di metterlo nei feed di Runtime Radio, lo spot che praticamente ci racconta il fatto che in lotto noi facciamo questa iniziativa. E se volete capire quello che come funziona, funziona, come iscriversi, cosa si vince, roba del genere, seguite l'Instagram di Runtime Radio e andate su Instagram e cercate Runtime Radio, che è la cosa più semplice. Seguite e poi ovviamente lì vedrete insomma tutti i post, le storie che vi spiegheranno in che maniera si può fare questa cosa. Comunque la cosa importante da dire è che se volete partecipare, la partecipazione ha il costo di 3 euro a cartella. Basta andare su PayPal e mettere come destinatario della donazione runtimeradio@gmail.com e scrivere ovviamente tombolone di Runtime e mettere il vostro contatto Telegram. Da lì in poi noi vi contatteremo e vi spiegheremo come vi verranno consegnate le cartelle a seconda di quante cartelle avete comprato. Quindi ragazzi, iniziate già da subito a comprare le cartelle, così intanto iniziamo a creare movimento e ci prepariamo a questo bellissimo tombolone. Pensate, c'è un premio incredibile che ci fa tombola. Addirittura un premio che conserviamo da giorni nel pozzetto di Marco Avalli. Esatto. Esatto. Eh sì, praticamente c'è capito? No, non lo sei mai creso. Infatti, però che è così. Prosciutto, che è? La costina, no. Che quasi, no, quasi quasi no, non si magna, è roba merchandising, ecco, chiamiamolo merchandising, che stiamo facendo fare proprio per l'occasione, quindi alla fine sono più soldi che spendiamo che ma infatti conveniva fare direttamente noi una cosa, non lo so, cioè. Però vabbè, Michele ha avuto questa bellissima idea, io mi sono trovato aderente e insomma quelli di Progetto Nash anche sono aderenti e ovviamente lo sono contento. Guarda, sarebbe stato bello dire a chi fa tombola regaliamo una suoneria personalizzata per il cellulare dagli speaker di Runtime Radio. La sigla quella, di OGM. Quella è Lambo, eh. No, no, una fatta apposta per lui o per lei, anche, insomma, per anche, la persona che vince. No, no, potremmo no, anche no. potremmo farla anche Giovanni, bravo Giovanni. No. No, ma c'era anche quell'altra, ti ricordi? Rispondi, molto. Buttarsi di una chiamata Giovanni per dire chiamata Giovanni. Chi non vorrebbe averla questa suoneria? Chi non vorrebbe chiamarsi Giovanni in questo momento? Soprattutto regaliamo a chi non si chiama Giovanni. Esatto, perché se ti chiami Giovanni non la puoi avere. Non la puoi avere. Soltanto se ti chiami diversamente da Giovanni. Cioè proprio, cioè, hai visto quando, cioè, se ti chiami Giovanni sarà personalizzata con Rocco. Quando tu facevi le ricerche, i query in Cobol, no? Dice tutto ciò che è diverso da Giovanni, allora Non è Giovanni. Chiaramente. Comunque ragazzi, c'era la famosa suoneria, quella romana, Franco, telefono. Iniziava così, calmo, poi finiva rispagna sto cazzo da telefono e andava avanti così. Calmo, tomo, chiatto. Tomo, cacchio. Vabbè, no, ma poi mentre stavamo a dire questa cosa, in realtà, no, del merchandising, stavo dicendo qualche cosa, poi dopo mi avete interrotto e adesso non la so più. Che tu eri aderente, caderini, grafico, no, roba bella, vabbè, tanti soldi. Ma ti tratta aderente, stai di nuovo parlando dei pantacollan verdi? Che beh, verdi. In realtà, guarda, siccome che sto facendo questa attività fisica, ci siamo detti con la personal trainer che il mio obiettivo è quello di comprarmi dei pantaloncini verdi acetati. Bellissimi da mettere quando sarò in grado di poterli mettere, insomma, quindi è un obiettivo anche questo, quindi il pantacollant ritornerà sempre nella mia vita in maniera costante, si spera, non, diciamo, nel frattempo non, ragazzi, non sono caduto io, ho perso 4 ping di fila, tutto a posto, sto periodo io non lo so che sta succedendo, però vabbè, dicevo, stavo cercando di leggere il post di, il pensiero di Michela sulla chat diretta da Antenna Radio, che è l'idea è partita perché è Natale e possiamo fare del bene, ma soprattutto cresciamo col pubblico. Beh, diciamo che l'intenzione è di andare a colpire un bacino d'utenza, insomma, abbastanza importante, che comunque almeno quel giorno probabilmente qualcuno... Cioè quello dei canari. Esatto, e quando si dice almeno colpire, significa colpire, capisci? Colpire, no? Colpire proprio... No, ma poi, cioè, voglio dire, alla fine almeno qualcuno ci ascolterà quel giorno, se no... Io voglio comunque evitare di rimembrare a Roma chi era il canaro, perché potrebbe inficiare tutto il messaggio positivo. Infatti, che stiamo cercando. Infatti, basta guardare The Dogman e lì capite, esatto, insomma, esatto. Il canaro, anche se quello è molto romanzato, quel film, molto, beh, vabbè, molto romanzato. Anche se c'è poi la... ce ne sono due contemporanei, uno fatto da Stivaletti, mi sa che è molto più gore, molto, diciamo, più canaro, sì. E poi c'è Dogman che è più artistoide Sì, anche è quello più romanzato, anche se c'è la bellissima scena dei tizi che mettono il chihuahua dentro al freezer, è fantastico, io devo dire la verità che che poi lui che era crossover con Gualdi praticamente. Prego? In crossover con Gualdi, cioè questo sì, esatto, secondo me ha preso spunto da Gualdi, che praticamente, oppure Gualdi ha preso spunto dal canale, no? Che può dirlo, che può dirlo, insomma, non è che, comunque vabbè, volevo dire una cosa, ma ci vuole che fine è morto, tornerà. No, perché praticamente è difficile spiegarti, perché è un po' articolato, cioè ci stanno sti tre personaggi, uno è quello che poi nel film diventa il canaro, però era un pezzo di pane, una persona buona fondamentalmente, soprattutto amava incondizionatamente questi animali, e gli altri due erano due briganti ai quali lui dà una mano per fare una rapina dentro un appartamento, però mentre questi fanno una rapina dentro un appartamento, sto cane che abbaiava, quel tizio, quello più grosso, quello più insomma brutale, ha preso sto cazzo di cane e l'ha buttato dentro, tra l'altro non è che l'ha buttato solo dentro al freezer, l'ha buttato dentro al cassetto del ghiaccio, capito? E quando lui a un certo punto, cioè loro sono tornati giù e sono tornati via, lui, quello il canaro, a sti due gli faceva: ah, ma io sentivo abbaiare, perché poi non ha più abbaiato? Perché il cane ha rotto il cazzo, l'abbiamo sistemato. Come l'hai sistemato? Quindi lui praticamente la notte che fa? Ritorna nell'appartamento, rientra nell'appartamento, che era ovviamente vuoto, nell'appartamento che avevano rapinato, semplicemente per aprire sto freezer e salvare sto cane che nel frattempo era diventato uno stambecco, cioè nel senso con i gambi dritto. Cioè è brutta come scena, perché è brutta, però mi hanno fatto tanto ridere. Però poi dopo lo salva. Cioè, la disibernazione in quel caso non ha creato cristalli di ghiaccio impazziti. Bello. Credo che Michela se lo ricordi, abbiamo visto insieme il film, carino, però non molto aderente alla realtà, insomma, diciamo. Ah, sì, perché hanno scongelato un cane, quindi quello in particolare, no, ma cioè era una versione molto romanzata della storia, che sì, prende spunto dalla storia originale, però poi alla fine, ma la verità è che hanno fatto questi adattamenti di trama per sfondare sul mercato cinematografico cinese. Esatto. Tra l'altro, a proposito di mercato cinematografico cinese, insomma, per rimanere in tema razzista, mi ricordo che l'ultima volta che sono andato da Dinzu, con Scozia, cioè che avevamo portato pure il nostro cane, i cinesi ci hanno guardato male perché hanno detto che non si porta il cibo da casa. È giusto, scusa. Che cavolo. Però se tu gli dici che è il dolce perché è un compleanno, te lo fanno portare. Il dolce sì, però cioè, no, ci porti il cane perché è il dolce, no? Vedi, esatto, le metti le candeline sul collare. No, cioè, questo non è pelo, è zucchero filato, quindi cioè, no, zucchero poi filato, na. Sicuro. A spasso col suo gatto se ne e va. Ma non è Candy, gatto, questo è il suo cane. Oh Candy, na. Non vi piace, no. Candy? Non era il nostro. Io guardavo Candy. Vabbè. Molto. Infatti, guarda come sei cresciuto. Guarda come sei cresciuto. Che poi, tra l'altro, cioè, al di là del fatto che Candy è preso da un romanzo, no? Cioè giapponese. Poi alla fine, però, secondo me, loro lo trasformano in una sorta di soap opera animata. Cioè, alla fine diventa una telenovela. Cioè, vabbè, ma i giapponesi con le serie lunghe hanno sempre fatto così, soprattutto quelli per. A parte quanto dura, cioè, quante puntate so? Che poi tanto, cioè, era come Automan, no? Un sacco di puntate, invece erano 8. Ma quella era meglio. Non hanno mai finito la prima stagione perché la serie non ebbe successo, costava tanto produrlo, hanno accannato a metà. E anche hanno fatto bene. Vabbè, no, dai, guardandola con l'innocenza degli occhi del bambino, a me piaceva tanto. Sì, devo dire che mi piaceva anche a me. Però poi, siccome che io ogni tanto rivedevo le puntate, qualcuno l'avevi vista, roba del genere, lo mandavano a manetta, a ripetizione, sembrava chissà quante cazzo di puntate erano, invece niente. Perché all'epoca dice: cazzo, l'abbiamo comprato, mo che famo? Lo mandiamo a nastro, perché magari l'hanno comprato non sapendo che non sarebbe stato. Ma non gliene frega niente, sai quanta roba comprano e poi buttano lì tanto per. Comunque, per la cronaca, se non l'hanno tolto, fino a qualche tempo fa c'era su Amazon Prime Video, se lo volete andare a recuperare. Invece vi dico, perché poi entriamo veramente nel vivo della trasmissione, che se volete recuperare la puntata di Quando Eravamo Futuro, abbiamo parlato di Spazio Meno 199, trovate la prima stagione restaurata su Rai Play, sulle teche Rai, però solo la prima, stagione, purtroppo. Vabbè, forse arriveranno anche le altre, dai, voglio immaginare che se il progetto ha funzionato. Se invece non le trovate, andate su YouTube, scrivete Spazio Meno 199 seconda stagione 2 e trovate tutte, insomma, arriva Maglia. Tra l'altro la seconda, vai. Ma finisci poi. No, dicevo che comunque la seconda stagione poi è quella dove entra la produzione americana, cambia proprio un po' il mood della serie, insomma, cioè, non è che... Però non la sapevo questa cosa, la produzione diventa americana? Sì, la Rai esce e diventa una coproduzione inglese e inglese-americana, cioè, però gli americani invece di portare i soldi portano praticamente i sceneggiatori, che è la cosa peggiore in quel caso che potessero portare, certo. Infatti cambia un po' il mood della serie, insomma, diciamo così. E poi vi ricordo che domani mattina esce la puntata di Scimmione non leggono Nietzsche con una puntata dedicata a Roma. Roma, capito? Cioè, proprio d'accordo. Ah, alla Roma? Che no, figo. No, alla Roma, a Roma, capito? Cioè, così ho detto. All'uscita, 27, te raccordo, bravo, esatto. Vedo che, tra l'altro, l'ho anche citato poi nella puntata, quindi. Bene, comunque, so. Comunque stavo a dire una cosa, cioè, quando tu Simone hai detto tra l'altro uscita, stai parlando di, cioè, l'ultimo soggetto era quando eravamo in futuro, tra l'altro è uscita la versione restaurata, il viaggio che mi sono fatto in testa, non vado oltre, tanto ci capiamo, che tu, cioè, è uscita una versione restaurata della prima stagione di Quef, che nella mia testa vuol dire epurata in senso stagliato. Non si dice. Tra l'altro, cioè, No, mi sono immaginato te nella mente che tu ti metteva a tagliare. Con doppiate da pupazzo e gnappo. Esatto. Guarda, avrebbe potuto anche succedere, ma la cosa che è successa è che improvvisamente la sigla è mutata senza nessuno si è accorto di niente, cioè, perché c'è un taglio talmente chirurgico che Leo Vargan nella sigla sembra che dice proprio in quel modo, capito? Cioè, quindi, però vabbè, dai, sono cose che succedono per dissapori che però insomma vedo che ogni tanto non sono bastati sti dissapori, insomma, diciamo così, però vabbè, comunque andiamo col questa cippe, è la sede. La sede, sei messa a sede? Cioè, sì, sì, perché dopo un'ora in piedi senza fare niente. Allora, Walter, adesso tocca a te. Iniziamo con Twitter. A te. Però, prima di partire con Chip, io voglio sapere questa domanda esistenziale che trovo su Quora: posso lasciare mio figlio di 8 anni da solo in casa mentre vado al supermercato? Questa, cioè. Tu apriresti un social network, cioè lo costruisti proprio da zero solo per domande come queste? Io sì, a voglia. Io c'ho anche la risposta. L'importante è lasciare il fuoco acceso, così quando torni è già cotto. Esatto. Invece Francesco diceva? No, a voglia, se lo lascerei è come, cioè così si può fare ripe in tranquillità senza 8 anni, che cazzo. Prima che comincio meglio. Già, ma magari a 8 anni ancora non... Boh. Non lo so. Io c'ho 13 anni, ma ci sono anche le risposte, ti prego. Sì, ci sono le risposte, ma poi se vuoi te le linko, perché sai che io se mi metto a leggere è finita poi, no? Giustamente. Quindi intanto andiamo da Walter. Allora, iniziamo dal tema incazzoso, poi magari andiamo al nostro Beniamino, perché il nostro prediletto ci regalerà delle perle anche oggi, e poi ovviamente tra una cosa e un'altra, se volete, raccontiamo anche di Elon Musk. Un po' alla volta, secondo, diciamo, la scaletta e gli interventi. Iniziamo però con questo tweet di tale utente che si chiama Convivio Blog, Rossella Vivio si firma, che scrive: vedere i difensori del reddito di cittadinanza in piazza a Palermo, belli, pasciuti, direi obesi, urlanti contro la sua modifica, temendo di dover mangiare alla Caritas, sembra un prodotto satirico. E ci mette pure il sorrisino. Insomma, come dire, ci sono persone che sembra proprio vogliano essere trattate male, no? Sui social, e quindi dimostrano tutto il loro squallore umano, e dopo giustamente arriva uno tsunami di risposte. Ma io vorrei partire da una domanda a voi sodali della diretta, mentre metto in chat il riferimento al tweet di cui parlo. Secondo voi, che partito vota una persona che si esprime in codesto modo? Calenda. No. Io flagelli d'Italia. No, ragazzi, no, tendenzialmente si vede che voi non bazzicate tanto Twitter, ma no. Tendenzialmente tutti quelli che si esprimono così sono renziani. Italia. Vabbè, hai visto, ci sono andato vicino. Tu sei arrivato per leggere approssimazione. Che, ma tanto, quello. Alla fine, che tra l'altro poi si stanno a prendere per culo pure da soli, perché. Sì, beh. Cioè, ufficialmente che compreso, insomma, cioè, l'hanno proprio esplicitato il fatto che stanno insieme solo perché almeno così sono entrati in Parlamento. Perché insomma, ma soprattutto Renzi, perché Calenda c'entrava lo stesso, c'entrava, è la cosa divertente, che io continuo a dire cavolo, cioè, ci eravamo liberati di un problema, ci ha pensato Calenda a salvarlo, voglio dire, quando ieri capitava a Renzi di trovare uno così, però vabbè, quando c'è ricaschi. Tra l'altro, vabbè, comunque. Poi, dai, che questo mi interessa. No, e niente, quindi poi lì c'è stata tutta una sequenza di commenti, ovviamente, indignati a questa persona. Per esempio, che schifo quanto può essere nero l'animo di chi è stato più fortunato. Razzismo e classismo che appartiene a chi vota terzo pollo. L'altra dice: la signora purtroppo non sa che se hai pochi soldi in tasca puoi permetterti soltanto pasta, pane, affettati e cose che la dieta mediterranea se n'è andata a farsi pottere, a fottere da un bel po', quindi tutto meno che bei obesi e pasciuti. E poi chi dice, per esempio, che riderissimo, gli obesi che temono di finire la Caritas, che ridere, che schifo di tweet, e così via, perché insomma ovviamente il tenore dei commenti è questo, però era per sottolineare ancora una volta che chi non ha tanto disprezza chi ha ancora meno, e questa cosa sta diventando la famosa guerra tra poveri che sta sostituendo quella che una volta era la lotta di classe, no? E questo è uno specchio veramente brutto della nostra società. Sì, fa abbastanza schifo, ma però ha avuto un aspetto positivo, che è quello di avermi riportato alla mente un film che stavamo scrivendo io e Michele Salvezza, che salutiamo, che praticamente era un film post apocalittico, quindi subito dopo una qualsiasi catastrofe, dove l'umanità era divisa tra secchi e obesi, e che erano in perenne guerra fra di loro, cioè gli obesi che volevano mangiarsi i secchi e i secchi che volevano ammassare gli obesi perché facevano accumulo di grasso praticamente, cioè nel senso. Ma cos'è che determinava se il far parte dell'una o dell'altra categoria? Se eri obeso o se eri secco, sì, cioè, nel senso. Sì, ma cioè la distribuzione regolare del cibo, cioè cos'è che determinava il fatto che tu potessi mangiare da essere obeso o meno? Eh no, e praticamente nel momento in cui c'era stata l'apocalisse, se tu eri già obeso, cioè quello rimanevi obeso, no? Quindi il tuo scopo era quello di sopravvivere praticamente combattendo e schiacciando tutti i secchi e mangiando, e invece i secchi praticamente dovevano fare le imboscate agli obesi per cercare ovviamente insomma, di scomporli e prendere il grasso. Insomma, era un bellissimo film, era. C'era l'Holocaust e niente in confronto. Sì, era veramente molto ambizioso, un progetto ambizioso. Beh, troppo, certo, ambizioso. Sì, forse troppo ambizioso, diciamo, anche perché poi non avrebbe. Guarda, mai da trasmettere in anteprima al Sucker Film di Moretti, Moretti. No, io penso che se con Gualdi ci rimettiamo e trovo alcuni appunti magari della sceneggiatura, potremmo farne un radiodramma per Runtime Radio. Sarebbe interessante. Sarebbe figo. Il priore contro i secchi. No, il priore non c'entra niente. Bisogna fare anche storie che non c'è sempre il periodo di mezzo, insomma. Poi magari è ambientato nell'universo del priore, magari. Uno spin-off. No? Esatto, uno spin-off che non esiste. Esatto. Fantastico. Esatto. Bellissimo. Uno spin-off con questo qua, che gli obesi che si mangiano i secchi. Ma poi la cosa bella è che nel combattimento gli obesi caricano in massa e schiacciando praticamente i secchi, cioè quella è la cosa. Lo potremmo intitolare House of Chichens. Sì, non sai che non mi ricordo il titolo di questa cosa, però devo dire. Ma come facevano essere obesi mangiando solo secchi? È perché ne mangiavano tanti. Ah, ok, quindi c'era un sacco di gente secca. E c'erano più gente secca che obesi, perché no. Poi gli obesi in realtà è un po' come il mondo dei zombie, no? I zombie dopo un po' se putrefanno, cioè se invece l'obeso diventa secco, invece l'obeso non è che diventa secco, però diventa sempre meno obeso e quindi ha bisogno di alimentare la sua obesaggine, se no vengono mangiati agli altri, lo mangiano. Bravo, esatto, infatti è proprio quello, perché in realtà essere obeso, essere secco è come essere dalla parte giusta della storia in quel caso, cioè è una classificazione, un odio sociale, cioè capisci, è come i rossi contro i neri praticamente, e quindi cioè tu devi decidere da che parte devi stare. E a volte non posso. Scusa, pensavo avessi finito. No, no, dico, vabbè, l'unica cosa è che a volte poi lo decide il destino, perché se eri obeso non è potuto stare coi secchi. Ma ci potevano essere delle quinte colonne, chi lo sa, insomma, capito? Vai. Allora, ragazzi, intanto un momento di silenzio, salutiamo Girasole. Ah, salutiamo Girasole. Ciao Girasole. Saluta Gualdi. Ciao Girasole. Allora, dice: di cosa parlate? Perché evidentemente si è collegata a te. Stiamo parlando della sceneggiatura incompleta, ma non è detto che lo resti, di un format che potrebbe essere il radiodramma 2023 di Runtime Radio. Esatto. Con la cosa che il personaggio che hai descritto, l'archetipo, no, del ciccione, adesso mi ha fatto venire in mente Vladimir Harkonnen come genere, non so perché gli do quell'imponenza lì. Lo so, io pensavo a un amico nostro quando ho scritto questa cosa. Dai. Però poi vedi, lì oggi noi abbiamo degli elementi per inserire, però dopo, più avanti nella sceneggiatura, il terzo elemento. Cioè si secchi gli obesi e non si può dire, non si può dire. Però c'è un certo punto. Le femmine. No, no, no, le femmine sono contemplate tra obesi e secchi, cioè nel senso non è che sono solo maschi, se no è finito subito il film, cioè nel senso. Guardi, ma ha capito, penso. Sì, quella è la terza categoria che subentra improvvisamente. Sì, sì. Vabbè, dai. E vai Walter, continuiamo con Chip. Ah, proprio così, ci giochiamo le cose così come se non fu con niente fosse. Allora facciamo una cosa, ci giochiamo la carta Elon Musk. Per raccontarvi in realtà stavolta più che un tweet, perché poi non mi sono salvato la screenshot, però vi racconto di questo scazzo proprio in diretta Twitter tra Alissa Milano, non so se avete presente l'attrice, una delle interpreti di streghe, sì. Ok, e Elon Musk, tanto per cambiare. Questo perché Alissa Milano ha twittato di aver venduto la sua Tesla e di aver preferito al posto della Tesla una Volkswagen elettrica. Elon Musk, non potete capire, non ci ha visto proprio, ci ha visto blu, è diventato paonazzo, rosicato, e gli ha risposto che ha comprato una macchina di un produttore fondato da Hitler e dai nazisti. È vero, assolutamente vero, cioè, proprio. Vabbè, lui l'ha capito, fondata. Sarà anche vero, fatto sta. L'ha fondata Hitler, e ovviamente non vi dico che cosa veniva alimentata, perché la BMW è una macchina nazista, ma lo sanno tutti, insomma. Cioè. La Volkswagen. La Volkswagen, è quella ancora più nazista. Cioè, Volkswagen significa gente nazista, infatti. Beh, comunque, insomma, tutto questo era semplicemente per significare che Elon Musk non è uno che rosica per niente. No, perché deve rosicare? Cioè. No, infatti, è appunto quello che dico anch'io. Okay, ma se compra la Volkswagen, tiè, vaffanculo. Io però mi è venuto un attimo un dubbio, sì. Ma non l'abbiamo detto la scorsa settimana sta cosa? Oppure era nella chat e quindi io mi confondo? L'ho messa nella chat per annunciarvi, okay, che ne avremmo parlato. Ok, no, no. Ok, va bene. La notizia è del 28 novembre, quindi sostanzialmente non ne abbiamo parlato la puntata precedente. Allora ragazzi, io però prima di passare a Francesco voglio farvi una domanda, perché questa è una domanda importante. Attenzione, sei pronto? Guarda. Le cuffie. Le cuffie, dai. Aspetta, se mi passi il link poi te leggo pure qualche risposta, se vuoi. Allora. Se vuoi. Sì, aspetta. Sto aspettando, aspetta. Voi. Sono concentratissimo. Allora, aspettate. Allora, aspettate. E continuo a concentrarmi. Avete messo in crisi adesso, aspettate. Allora, facciamo una cosa. Sì, sì. Mettiamo la musica, no. Facciamo una cosa, vai Francesco, prova, tira fuori una cosa tu e poi io intanto mi organizzo per questa cosa. Vedi quello che devi tirare fuori. Ok. No, semplicemente questa settimana, diciamo, non sono io non sono stato tanto io a cercare materiale, ma è stato il materiale a cercare me. Perché mi sono aggiunto un po' dei gruppetti, non tanti gruppi, cioè, però è successo che un po' di gente al di fuori mi ha iniziato a contattare, a dire ah, c'è in questo gruppo, eccetera eccetera, e ho interagito un po' con sta gente. Allora, non creare troppo alto, c'è queste pause mortali proprio. Vabbè, ma no, no, solo che stavo cercando, ma hanno, eccolo qua. Mi dispiace disturbarla, ti ho visto in chat qui su Telegram. Al momento sto sviluppando la mia rete di riferimento di un'azienda internazionale. La linea di fondo è che investendo ottenendo un reddito passivo, puoi anche lavorare senza investimenti attirando partner, puoi guadagnare soldi lì ogni giorno, il ritiro è immediatamente disponibile. Posso inviarti informazioni, un certo Filemon Mricaria, c'ha la faccia di uno, vabbè, dopo mando, cioè comunque secondo me è affidabile. Sì, certo. Allora io gli chiedo: scusa, ma chi te sapo? E lui mi risponde inviandomi il link del gruppo. Io gli rispondo: ho capito, ma chi cazzo te sapo? E non mi ha risposto più. Chissà com'è. Pure io oggi mi sono trovato dentro un gruppo Swiss Flant Plan Futures on the way. Lo so. Con un tizio invece, che ne so, adesso dico Mario Rossi perché viene. Mario Rossi ti ha invitato. Prima c'era Mario Rossi, ti ha invitato a questo gruppo. Poi sotto, dopo un po', c'è scritto Mario Rossi ti ha inserito, cioè ti ha aggiunto al gruppo. E dopo un po' Mario Rossi dice attaccato al cazzo. Ma perché sta gente, da dove li prende i contatti? Cioè, nel senso. Sono botti questi, no? Botti. Prendo no, era Mario Rossi, dai, era Mario Rossi. Mario Rossi. Comunque, Marco, guarda. Io mi ricordo, posso dirti una cosa prima su questa cosa? Ricorda, non ti scordare quello che stavi dicendo. Allora, vedete, qualche tempo fa invece ho visto il video di un tizio, francamente non mi ricordo, però dovrebbe essere abbastanza famoso, magari l'avete visto, di questo ragazzo che veniva scammato da un tizio che gli proponeva. Scammato, ma che, scammato, guardi, che cazzo vuol dire scammato? Scammato. Praticamente veniva veramente contattato da questo tizio su un social, diceva guarda che... devi smettere di farmare però, Marco. Esatto. E viene contattato da questo tizio e dice guarda, io ho un investimento da fare con loro, quelle cose, possiamo fare un investimento da 5.000 dollari, una cosa del genere. E allora ho detto ma 5.000, ma perché 5.000? Ma facciamo di più. E lui probabilmente si finge tipo direttore di una banca che vuole fare tipo un investimento da 500.000 dollari, cosa del genere. Probabilmente gli ha rigirato completamente lo scam. E poi, vabbè, è finito che non gli ha più parlato perché dopo parecchio, in realtà, sgamato che lo stava a prendere per culo. Però c'era questo che leggeva, andava a leggere questa chat infinita di lui che prendeva per il culo quello. Diceva, guarda, io sono esperto di cose monetarie, mettiamoci d'accordo perché facciamo questa cosa. Ci mettiamo più soldi, prendiamoci tutto il gruzzo. Cioè, lui lo faceva, una cosa al contrario, fantastico. Però non so chi sia. Perché tu devi sempre considerare che tu pensi di essere furbo, ma c'è sempre qualcuno più furbo di te, sì. Oppure il contrario. Tu pensi essere stupido. C'è qualcuno più stupido di te. Più stupido di te. Ok, dai, devi fare questa domanda. Va, bravo, guarda, sei pronto? Sì, ricordami che la prossima settimana devo mettere anche la musica, quella del milionario, perché quella insomma. Che fa? Fa poi così, non ti va a tempo. No, le scuregge milionarie. Esatto. Scuregge milionarie. Tu mi sai dire, caro Marco Gualdi, per quanto cos'è il nuovo fenomeno di TikTok denominato wabbing? Il wabbing è praticamente, dato che parliamo del lato oscuro dei social media, è praticamente mettere la mano all'interno delle natiche di una persona del tuo stesso sesso indossando un guanto di gomma con degli occhi disegnati sopra, no, facendo la vocina dicendo ciao, guarda come ti guabbo. Mi sembra, però la cosa è che non ci sei andato proprio tanto tanto lontano, tutto sommato, quella è la cosa più inquietante, capito? Che tu dici cazzarando, in realtà pare che sia un nuovo fenomeno di TikTok, dove praticamente si usa cospargersi di fluidi vaginali. Così. Quindi a Francesco, se vuoi, ti ho messo in chat eventuali risposte, così, però questa cosa mi ha un po' turbato. Ma devo dire. Scusami, cospargersi di fluidi vaginali di altri o i tuoi? Cioè, perché nel senso io da solo avrei qualche difficoltà, per esempio. No, ma certo, è chiaro che ci devono essere le condizioni, i presupposti, insomma. Ah, è proprio, cioè, per la serie. A meno che non vai in farmacia e dici scusi, mi dà un vasetto di fluidi vaginali. Attento, no, non lo dico, che poi Gwyneth Paltrow lo mette. Qualcuno lo fa, vabbè. Fate dei candeli. Sì, sì, no, ma qua è spiegato meglio. Dice che praticamente sono donne che si spalmano, tipo come se fosse profumo, quindi negli luoghi strategici del profumo, i polsi, orecchie, eccetera, eccetera, per attirare partner. Allora, qua questo si chiede. Maschi che dovrebbero fare, giustamente la sbubba. Ma probabilmente potrebbe anche funzionare quasi come feromone, no? Nel senso, che quello, la cosa il concetto è quello. Ma i feromoni, cioè da attaccare, cioè, gli esseri umani dei feromoni, forse 10.000 anni fa, forse pure di più. Cioè abbiamo l'olfatto meno sviluppato dei mammiferi tutti, quindi. Comunque ragazzi, attenzione, perché io vedo scrivere in chat e la cosa divertente è che questa sera probabilmente le quote rosa potrebbero surclassare le quote azzurre, che forse non è mai successo. E allora chiediamogli le quote rosa: voi avete fatto mai wobbing? Ecco, brutale, stavolta, sì, io stavo pensando attivo brutale, e passivo, però tutte anche le quote rosa, visto che sono tante. Oh ragazzi, Vi prego, mi stai chiamando uno dei contatti stronzi là. Io rispondo. Rispondi. Vai. Ti ascoltiamo, dai. Pronto? Metti via voce. Niente, è spento. Spento. Ha chiuso, secondo me no, è un bot. Sono bot, sì. Ma quelli non ha chiamato, ha risposto niente. Vabbè. Allora, in realtà sono rimasto quasi deluso perché chattava con noi la nostra adesso Ross Tyler, che intanto cambia nome. Eh sì, perché intanto bisogna variare, però si domandava se la nostra Lilith in pratica se fosse in ritardo o se poteva accendere e ascoltare OGM. Dico no, accendi, quindi a questo punto potremmo arrivare a ben, se Michela non si è addormentata, potremmo arrivare a ben 3 quote rosa. Sono numeri. Bene, Gualdi, invece tu c'hai qualcosa prima di far tornare il giro con Walter? No, però c'ho. No, che cazzo vieni a fare? Scusa, infatti, quello che mi dico anche. No, c'ho le cose. C'ho le cose. Ah, già, tu c'hai le recensioni. C'è le recensioni. No, ma questa settimana ho trovato delle recensioni, però. Niente di che. Però c'ho un po' di clickbait. Cioè io. Ah, cioè articoli scritti. Solo titoli. E vorrei sapere da voi a questo punto, quando vi leggo il titolo, Quanto cliccheresti? Quanto vi viene voglia di cliccare? Insomma, da uno a non posso farne a meno. Comunque mi sta scrivendo una certa agente Alessia, mi sta scrivendo. Agente. Immagino che tu sia qui per gli investimenti. Ecco come sta chiari chiamando. Vabbè, vai, al massimo rispondo. Ok. Allora, da motori punto qualche cosa. Precedenze sulla rotatoria. Da oggi sarai obbligato a fare così. Ti tolgono la patente. Quanto cliccheresti su questa cosa? Perché tu dici proprio quelli che nel titolo ti, cioè, proprio non, ti, non ti dicono allarmismo, però io guarda, esatto. Così ti fanno. No, io no, questo non me frega un cazzo. Io non ce l'ho la patente, quindi giusto. Non me frega un cazzo. Non so, Walter, che magari la patente ce l'ha, insomma. Perché fa le rotatorie, Walter. Beh, io tutti i giorni vado all'incrocio con quella che da noi si chiama zona industriale, faccio 7-8 rotatorie sgommando. Perché... Tutte ed esempio. Però non è detto che questo sia una cosa che ti possa far togliere la patente sgommando, insomma, comunque. Ma comunque. Dipende. Vabbè, tanto non lo sapremo mai. Ti rifreno a mano e fai la cortina di fumo con gli pneumatici, magari te la tolgono. Perché tu giustamente dici, io il titolo lo leggo, ma mica ci clicco. È giusto, è quello lo spirito giusto. Dite addio al vostro profilo, ve lo stanno togliendo. Aspetta, Marco, prima di andare avanti, sì. La cosa pratica, basta farla contromano, la rotonda, hai fatto jackpot. Ecco. Sì, ma non. Cioè, è una cosa nuova questa. Tanto non lo sapremo mai. Comunque, dite addio al vostro profilo, ve lo stanno togliendo, muovetevi a cancellare tutto. E quindi tu, e qui sì, magari la persona normale si spaventa e dice sì, no, fammi andare a vedere. Che tutti hanno un profilo, no? Qualche cosa hanno un profilo. Ricordiamo quindi sempre che poi dentro questo articolo non c'è scritto mai niente. Cioè, nel senso, magari che ne so, 10-15 paragrafi di cose che si ripetono fra di loro. Perché io poi questo ho notato che fanno l'introduzione. E poi l'introduzione un po' più lunga. Poi l'introduzione che insomma La cosa vera è che sono 5 righe. Più sì, e che poi non. Infatti io scorro avanti e vado. Non dice mai niente, cioè comunque non dice mai niente, questo è importante. Però c'è anche quest'altra cosa. WhatsApp sta per arrivare la novità che cambierà tutto. Stravolta faccina terrorizzata per sempre l'applicazione. Ma aspetta, ma questi dove li prendi? Questo è cellulari.it. Ah, cellulari. Che una volta doveva essere serio. Detto già nel 1990, esatto, speech. Esatto. Ah, ok. Quindi, però, sono i maestri, hanno inventato loro il clickbait. Esatto. Beh, comunque in realtà le novità su entusiasmanti su WhatsApp ci sono. Se chiunque usi Telegram, queste cose le conosce da 10 anni. Però WhatsApp coi tempi suoi ci sta arrivando. Hanno introdotto anche le community. E adesso puoi messaggiare con te stesso, che è una cosa che ha suscitato tutta l'ilarità, no? Ma in realtà questo già si poteva fare con Telegram, con WhatsApp. No, anche a voce. No, anche con WhatsApp. No, lo facevi perché c'hai 2 account, c'hai 2 numeri telefonici. No, sullo stesso numero. Ah. Vabbè, comunque io questa cosa la trovo utile perché a volte sul messaggi salvati, cioè quindi praticamente alla chat con me stesso, esatto, praticamente io ci segno delle cose che mi servono, cioè nel senso comunque anche se non mai particolarmente sensibili. Diciamo che WhatsApp ha anche inserito le cose, le reazioni. ragazzi. Cioè, quando uno deve fare delle azioni. C'è una frase, se tu praticamente tieni cliccato, appaiono le emoticon sopra che tu poi pensavo, metti. Cioè, se una frase non ti piace, a stronzo, ci puoi aggiungere. Ma più o meno le reazioni, quello, insomma, the reaction. Reaction. Dai, dice un'altra, guarda. Foto di Elon Musk, perché c'è sempre lui, Elon Musk da qualche parte. Nemmeno lui sarebbe arrivato a tanto. La Tesla più assurda mai vista prima. Che fondamentalmente non c'ha senso questo titolo. L'hanno fatta limousine? No, perché non lo so, non lo sapremo mai, sempre perché non, perché non ci cliccheremo mai. Però cioè, nemmeno Elon Musk sarebbe arrivato a tanto a fare una Tesla assurda. Però ci è arrivato, cioè non c'è senso sto titolo, capite che è un inception de cazzate. Dice, iPhone, attenzione a questo dettaglio, se non lo fate rischiate di romperlo. E qui, ma vaffan, dice, tutte quelle persone generaliste che hanno comprato a 1300 euro l'iPhone se lo vanno a leggere, perché dicevo c'ho, esatto, paura di romperlo, giustamente. Potrebbe rompere. Scusate, intanto però in chat, sì, Olivia dice WhatsApp ha anche inserito, ragazzi, la privacy totale, che sembra il calcio totale. Chi lo giocava? Cioè, Lidl, che cos'è la privacy totale? Sì, esatto, quello che ti taglia, no, fuori... il calcio totale era quello olandese, no? Quindi Cruyff. Sì. È okay, quella, quindi... la privacy che ti toglie tu, cioè praticamente non vedi un cazzo. C'hai talmente tanta, esatto, privacy pure con te stesso, capito? Cioè... risulti offline per gli altri anche se sei online con qualcun altro, non ho capito in che senso, però se, la cosa divertente è se risulti offline per te stesso, ma in realtà tutti gli altri ti vedono, più divertente. Sì, ma tanto sei offline. Che poi non vi ricordate, c'era tutto quel periodo in cui su YouTube era pieno di quei video che ti dicevano come fai a sapere se quello ha letto il messaggio anche se non vuole farti sapere che l'ha letto. Cioè, a me non me ne è mai fregato un cazzo di sta roba. Sì, cazzi. Però prima ce n'è un altro? Ce ne stanno tanti. No, uno, uno solo, dai, che poi dopo vi faccio questo, un'altra domanda importante. Ci riguarda un po' tutti tranne me. Per tutti tranne me. Netflix spiazza tutti. Milioni di account subiranno il cambio. La rivoluzione è già iniziata. Tra l'altro Netflix mi fa pensare a quello che mi è successo a me con DAZN, e ancora non ho verificato se la questione è comunque legalmente perseguibile, perché DAZN, come tutti i servizi, quando tu decidi di interrompere il servizio al momento della scadenza della fattura viene interrotto, basta. Invece DAZN, dato che giustamente con i mondiali perdeva una marea di abbonamenti, che ha fatto? Se tu, che ne so, a metà del mese vai a disattivare l'abbonamento, quindi portando la scadenza e poi non rinnovando, non pagando, loro si sono inventati sta cosa che tu hai fatto sta cosa, però hai usufruito, lo hai chiesto alla metà del mese, quindi il prossimo mese pagherai metà del mese. Cioè, quindi praticamente è come se tu sta cosa, che non c'ha nessun senso, e me l'hanno fatto pagare. Capito la cosa? Quindi la faranno pagare. Quindi poi ovviamente mo troverò il modo per farmi rimborsare. Sì, ma la prossima volta tu fai, io il giorno stesso lo togli. No, il problema è che i soldi se li sono presi. Quindi poi no, se... dico, per il mese lo fai, il giorno dopo lo togli, che te fanno pagare un giorno poi. Eh sì, avresti dovuto far così. Esatto, dovresti far così. Però credo è una stronzata, perché prima non funzionava così. No. Comunque la domanda che vi faccio prima di tornare a Walter è: qual è stato il dolore più intenso che sia mai stato provato? Cioè, non da te o da me, ma dall'universo. Esatto, esatto, esatto. Adesso metto a Francesco le risposte. Fisico, tu dici fisico? Sì, secondo te qual è, Gualdi? Fisico è dolore, se vale, allora dolore. Deve essere una cosa che accomuna uomini e donne, perché non ci può essere il dolore. Non necessariamente, perché magari le donne hanno dei dolori che noi non avremo mai. Non lo so, quindi saremo automaticamente tagliati fuori, cioè nel senso dovrebbe essere qualcosa che è univocamente. Penso che sia più universale, sì. Allora, io penso essere spappolati, però lentamente. Lento spappolamento, esatto. Tu Walter? Ma intanto leggo Michela che dice il parto e la colica renale insieme all'unisono praticamente. Esatto, e la diarrea con te. Ah, non sono tanto sicuro, cioè. Non sono tanto sicuro. Secondo me un calcio alle palle è più doloroso. Come c'era una battuta io su questa cosa. Vi posso raccontare, se serve l'esperienza personale, credo che la cosa più dolorosa che io abbia mai provato fu una volta una partita di calcetto con gli amici, questo pallone che fa un rimbalzo strano e dal basso verso l'alto. Calciato con una certa veemenza, ma non con una traiettoria diretta verso di me, rimbalza a 45 gradi, riparte verso di me, dal basso verso l'alto, mi prende entrambi i testicoli. Boom! Non c'ho più, ho perso proprio questo, ho visto nero. E da allora non sei cresciuto più. E da allora non sono cresciuto più. Ho visto nero, ragazzi. Un male che non vi posso spiegare. Ma chi è nero? Un amico tuo? Visto, è il cattivo del nero. Esatto, è il cattivo del Star Trek, si chiama Nero, un romulano si chiama Nero, vabbè. Ma guarda che può succedere, a me a calcetto mi è successo proprio su un mio tiro, il portiere riesce a parare con il piede e sta palla girando molto velocemente mi va proprio sull'occhio, quindi mi fa praticamente una ferita sulla cornea, cioè una cosa, vabbè, praticamente vedevo bianco. E quindi poi al contrario di Walter che vedeva nero, esatto. Bravo. E vedi che c'è una... E praticamente per tipo una settimana e mezza ho dovuto mettere una pomata dentro l'occhio, che ragazzi è l'esperienza che io non auguro mai a nessuno, perché non solo ovviamente non vedi più un cazzo, ma proprio è tutto appiccicoso, è una pomata proprio effettiva, è una proprio a tutti pomata gli effetti. Da corno. È una cosa terribile, però il dolore che ho provato io in senso assoluto più intenso è stato, penso, un certo tipo di mal di denti. Cioè quello proprio che ti entra nel cervello, che ti fa male l'orecchio, che ti fa male il trigemino, che ti fa male... Ti fa proprio impazzire. Quello è una cosa terribile. E pensate che io quando ero pischello, sempre per la mia avversione in generale alla medicina, che già ne prendevo tante, mia madre una volta mi ha veramente trovato che stava a sbattere la capoccia al muro. Poi il dottore mi disse che comunque neurologicamente non fa bene. No, bisogna prendere capoccia dal muro. Provare dolori intensi senza se si può intervenire, perché comunque non fa bene neanche il dolore, cioè nel senso non è un atto di forza, di resistenza. Poi non so se Francesco magari può confermare o smentire, perché tanto ormai sapete che qualsiasi cosa ne chiediamo. Qualcosa Francesco. Che riguarda il non fisico direttamente. No, Francesco, come l'altra sera, insomma, a Runtime by Night, Francesco doveva dire la verità e non ci so caso. Francesco ha detto la verità l'altra sera. Sì, poi... sì, ha detto la verità. Gli chiedevo Sant'Agostino, che di solito è lui il detentore di... Lì in quel caso, nello specifico, eri tu. Cioè, nel senso, io so, lui anzi ha proprio ammesso che ha partecipato per dire questa cosa, per sapere da Francesco come erano le cose, capito? È fantastico. E Francesco ha detto, io che cazzo ne so. Ed è la verità. Che è la verità, gli ha detto la verità, insomma, tutto sommato. Allora, intanto continuiamo a leggere un pochino le testimonianze dei dolori dei nostri ascoltatori, perché Olivia ci racconta la volta più brutta per lei è stata quando si è bloccata con la schiena e non riusciva a camminare, dice, ma proprio a stare in piedi, nemmeno poggiandomi agli oggetti. Ma le immaginavo che tipo l'esorcista che tipo la testa quanto, girata a quanto zampa girata, sì, sì. servivi i clienti, no che scendeva le scale, capito? Che scena, c'è un dolore atroce. Beh, stiamo scherzando sulle sofferenze altrui, è vero, non si parla. È il modo più divertente, infatti, esatto. Il dolore va sdrammatizzato, insomma. Allora ragazzi, io invece aspetta scusa, poi ma Francesco, oh. ci sono delle risposte interessanti a questa cosa, se no andiamo avanti. Questo del dolore in realtà è una risposta molto seria, quindi non ce ne fotte. Cioè, dice gli scienziati del McGill University in Canada concordano sul fatto che il dolore è più insopportabile agli esseri umani, sia fisico che mentale, perché non esiste una cura. È quello causato dalla CIRPS, Complex Regional Pain Syndrome. Questa sindrome si verifica dopo una lesione e provoca danni ai nervi. Il dolore molto forte può durare per diversi mesi. In caso contrario, si può incorrere nella puntura di un insetto più doloroso del mondo. Ah, sì, questa la sapevo. Che si fa di tutta la parte del corpo. Facilmente fa parte della testa. È paraponera. Ma c'era tipo un tizio su YouTube che si faceva i video che si faceva pungere dagli insetti più stronzi e lui ci soffrì. Bravo, bravo. Complimenti. Spero che non abbia guadagnato abbastanza soldi per pagarsi le cure. Speriamo sia morto di crisi anafilattica. Esatto. Vai, Walter. No, volevo dire che prima però, leggendo le chat, ho fatto un parallelo abbastanza inquietante rispetto ad argomenti che abbiamo trattato prima, perché per esempio Michela diceva, no, parlando del non sapere come funziona il mandare i messaggi a se stessi in chat, dice che lei utilizza Simone. Come... Sì, purtroppo è vero, sì. Ma a parte, a un certo punto pure dice salva... però una frase che si ricollega a qualcosa che dicevamo ancora prima, che è lo riempio di roba mia. Ecco, a posto, esatto. Ma però alla fine è vero, perché lei praticamente, cioè, il fatto di fare quella cosa in più, tipo, ecco, stavamo organizzando questa cosa della tombola, hai detto, Michele, fai un Google Document. Cric, cric, cric, cri, cri, ma non perché non lo sa fare, cioè, è proprio il pensiero del, del... Il sadismo. No, è il, per lei il concetto di organizzare una cosa, cioè, deve organizzare come dice lei, a casaccio, capito? Quindi quello funziona. Però in quello devo dire che è maestra, cioè, nel senso che tutto sommato lei nel, nel disordine, nel caos trova la sua dimensione. Le dimensioni del mio caos, come dicevo. Esatto, citavamo Caparezza, lo stavo per fare io, mi hai anticipato. Va bene, ragazzi, vogliamo andare. Mi fate la sigletta perché è arrivato il momento più tenero del mondo. Della... non me lo ricordo come si chiama lui, Pillon. Pillon! Allora, ragazzi, grazie per questo stacchetto. Vi ricordo che questa è la rubrica che si chiama Pillon. Scusa, non era finita. Sì. Non era finita? Oh. Adesso sì, però. Bene. Ok, e vi faccio vedere questa ennesima testimonianza di quanto l'ex senatore Pillon sia un capitore di arte tradizionale quanto moderna. Ci mostra questa immagine di un famosissimo murale di Banksy e dice: condivido Banksy, la famiglia nel mirino, opera del 2003. I cannoni delle ideologie sono puntati sulla famiglia. Le vittime di questa pulizia etnica saranno soprattutto i bambini. Alziamoci per difenderli. Spero possiate trovare qualche umile suggerimento nel mio libro. Quindi ci mette anche l'automarchetta. Però ragazzi, è inutile farvi notare che il murale di Banksy del 2003 che lui ha citato era contro la guerra in Iraq, quindi non parla manco per il cazzo di famiglia, tantomeno tradizionale. Quindi insomma, anche questa volta il buon senatore Pillon non ha fatto altro che probabilmente creare dei ganci per fare, per lanciare poi delle querele a caso, no? Sì, a parte questo, è comunque ormai è conclamato il fatto che per lui è un'ossessione ideologica, ma secondo me è proprio una morbosità proprio personale su questione dei concetti della famiglia tradizionale, perché lui qualsiasi cosa ha famiglia tradizionale, no? Poi dopo tutto ciò che ti da fuori non c'entra un cazzo. No, ma poi è bello, condivido Banksy, come per dire che io ho la certezza che Banksy parlava di quello e quindi io condivido il suo pensiero. Vabbè, che ve devo dire, ragazzi, non credo che sia reciproca la stima tra i due, ecco, non vorrei fare ipotesi, ma insomma. Poi occhi e croce, magari una volta di queste, che ne so, potrebbe capitargli lì sullo sguardo un'altra opera di Banksy che vi faccio vedere, che per esempio è questa. Ci spiegherà che questi sono due poliziotti inglesi che stanno difendendo una famiglia tradizionale. Non lo so, come lo può spiegare questo è Pillon? Semplicemente un a parte che non so se Banksy è un parente di Banksy, però probabilmente vabbè, però, però è Banksy, in realtà è Banksy. No, Banksy, sì, la gente non è Banksy, che la gente sbaglia, Banksy, esatto. Banksy. No, Banksy, volevo, ragazzi, volevo anche dire, volevo, sì, sì, sì, ma non ci fossilizziamo. Comunque, in ogni caso, questo è semplicemente un poliziotto che sta facendo la respirazione bocca a bocca ad un altro poliziotto che si è sentito male. Infatti, in realtà l'inquadratura è sbagliata. È sbagliata perché va girata di 90 gradi. Sì, e così esatto. È più. Ho capito, però, ragazzi, noi dobbiamo dare il pretesto, il gancio a Pillon per metterci la famiglia tradizionale. Questo intervento di primo soccorso non riguarda la famiglia tradizionale. No, perché quello che sta male è sposato con un bambino. Era una moglie, quindi sta salvando la famiglia tradizionale. Comunque io vorrei puntualizzare, anzi puntare un attimo l'attenzione su un dramma che è successo, cioè spero non sia così grave, perché praticamente Olivia dice che ha provato a entrare su PayPal per comprare le cartelle, ma praticamente non si ricordava password e cazzi in mazzi, e quindi PayPal gli ha bloccato il conto. Io mi auguro veramente che non ci fossero tanti soldi dentro. No, vabbè, non il conto, l'accesso all'account, evidentemente, sì, certo, dopo un fatto di tentativi. Certo. Magari domani può riprovare. Lo so, però Olivia, cioè, questo è non è dice perché che noi abbiamo fatto contare un time by night che era pensata per te, però che tu non c'eri, no? Però la senti pure in colpa. E però non è che tu poi dici, questo non è il rapporto con la tecnologia. Qui, insomma, un minimo d'organizzazione. Sei un po' come Michela pure tu, insomma. Comunque, per aiutare, proviamo ad aiutare Olivia per ricordarle che statistica del 2022, la password più usata al mondo è password, quindi puoi provare, seguita esatto. Da 123456. Esatto, esatto. Magari, ha detto magari che domani bene. Deve telefonare, gli hanno dato il numero telefonico per telefonare. Che però ha dimenticato, quindi esatto. Troverà dei numeri a casaccio. Però non ha il telefono, non ha il telefono. Pronto? AC, sì. Pronto? Esatto, AC2. Deve essere caduta la linea. Francesco, secondo te, no, adesso la faccio a te la domanda importante. Uh-huh. Come faccio a pulire i miei polmoni? Beh, puoi lavare. Ce l'hai il compressore? Scusa, ma che sei Francesco, tu? C'ha ragione. Si infilano sempre, ma come cazzo mi fa? Allora, l'idea del compressore è buona, oppure puoi inalare della candeggina, diciamo quella lì in polvere, puoi starnutirla, oppure semplicemente... No, è interessante però sta cosa. Come cazzo si spostano pulire i polmoni? Ma polmoni tuoi o polmoni di altra gente? Perché questo che fa la domanda penso che è riferita a se stesso. Come posso pulire i miei polmoni? Cioè, nel senso, i miei polmoni, proprio i suoi polmoni. I suoi. Lo sai che ho avuto una domanda simile guardando la pubblicità della tizia che si sta praticamente spruzzando l'acqua marina nel naso e si guarda vicina, ma ti metti l'acqua nel naso? È un filtro, io me lo pulisco. Cioè, costava che l'avresti presa spaccata sullo specchio. Ma c'è specchio. La pubblicità questa? Sì, e di che giuro. Cosa, scusa? Di quelli spruzzini per il naso, che praticamente acqua di mare. Che l'acqua pulire. Di Sirmione, probabilmente. No, è un'altra. E praticamente lì ho pensato, in effetti è un filtro, va pulito. Immagino come si possa pulire, che non so, i reni. Se ti li togli, li pulisci e oppure via. L'intestino. O l'intestino, perché no? L'intestino è più facile, guarda. Facciamo un pezzo. Siamo però con l'acqua salata. Comunque Girasole suggerisce di inalare eucalipto. Dai, e pure la curcuma sul viso, però dopo. Quello è più pulipolito. Quello è il curcumobbing, perché prima ti spargi la curcuma addosso. Esatto. Francesco, tu hai altro? No, qua c'è però tutta... Che bello. Poi c'è pure l'immagine del polmone da fumatore e da non fumatore. Ma questo qua c'è nel senso che... Vabbè, quello basta fumatore... comprare pacchetti di sigarette. Ah sì, però voglio capire. Cioè, qui è un tizio che l'ha tirato un attimo fuori. Guarda, sono fumatore, e poi l'ha rimessi dentro. Oppure, non lo so. Comunque dice che di fatto non puoi pulire i tuoi polmoni e poi tanta roba. Però no, è una risposta seria, quindi... No. Però male che vada, la candeggina ti fa passare il Covid se proprio non ti pulisce i polmoni. Quindi io proverei comunque. Non sapete che invece... Forse c'è un modo per pulire seriamente i polmoni, però non ve lo consiglio. Cioè, in realtà non me lo consiglio. Io non lo farei, tu non lo faresti, insomma. No, perché dovresti stare male. In realtà c'era questa cosa, si stavano poi tempo fa sviluppando di morire. Questi un po' di quark, questi liquidi iperconduttori di ossigeno, che praticamente tu respiri questi liquidi, e, però in realtà sono talmente ricchi di ossigeno che non soffochi. Quindi praticamente tu vai a scambiare direttamente ossigeno tramite liquido. Nelle celle di Evangelion, esatto, così. No, esistono effettivamente. E quello, essendo poi un liquido che va nel polmone, quando poi riesce fuori, viene praticamente tossito fuori, si può portare via delle scorie. Ok, no, va la fosci il liquido al polmone, però è volatile. Quindi comunque un po' lo tossisci, un po' comunque si volatilizza. Cioè, il problema, come si vede anche nel primo episodio di Evangelion, è la sensazione di morte che provi mentre i tuoi polmoni si riempiono di liquido, che non è una cosa gradevolissima. Ma infatti doveva essere utilizzato al posto dell'aria, dell'ossigeno, quello degli ospedali, perché comunque l'ossigeno tende a farmare i polmoni se viene costantemente a farmare anche. Quindi se c'è un paziente che necessita di ossigeno e magari non è cosciente in quel momento, poteva essere un'opzione valida, ovviamente, però pare che non sia stata poi successivamente utilizzata. Quindi sappiate che forse un modo c'è, ma che cazzo ve lo fa fare, soprattutto. Sì, ma sta diventando quasi una puntata scientifica, non va bene. Infatti basta, cioè al massimo ci vogliamo l'ano e basta. No, non c'è bisogno. Neanche. Ho 23 anni, no. Guadagno 1500-1600 euro al mese, sono automunito, e voglio sapere, dato che sono stufo di vivere dai miei, se riesco a trovare un bilocale dove poter vivere. No, assolutamente da no. Solo. Assolutamente no, non è possibile. 1600 euro. No. Beh, dipende dal paese. No. Dipende da dove, voglio dire. Sì, qual è la domanda? Quindi, qual è la difficoltà di questa? Vuole sapere se ce la può fare? No. Secondo perché se no. Ti stai ponendo questa domanda, sei un no, non può. Secondo me no. Se trovi un posto a 500 euro al mese, ce la puoi fare. Certo. Sì, no, il discorso è che se parti sei da un coglione, certo. In questo modo la domanda non ce la potrei mai fare. Per la serie, se fanno la gara, il campionato per chi è più stronzo, arrivi secondo perché sei troppo stronzo. Non lo so, secondo me non ce la fai comunque. non ce la fai. Ragazzo, c'è 23 anni e non ce la fai. È tempo che tu sappia di chi sei figlio. Non ce la fai. Invece è un male che riguarda un male, cioè per certi versi un bene, ma insomma forse anche un male. Di questa generazione è che ho 41 anni e sono incinta. Sono troppo vecchia per essere di nuovo mamma? Perché, ma perché la gente fa queste domande? Cioè, vabbè, questo penso sia più una cosa esistenziale. Sì, ho capito, che... ma tu vai sul social network a chiedere sta roba? Cioè, perché? Cioè, nel senso. Cosa, Simone? Sono anni che campiamo di mamme pancine sui nostri programmi e tu ti stupisci proprio di questa? No, no, in generale, perché sono anche delle domande più intime, più riservate, cioè proprio molto personali, che io non mi azzarderei mai. Perché appunto che non ti azzarderesti mai a farla ad anima viva, la fai sul social, ma magari che, esatto, chiamando le draghetta 95. Si è ammantata di irriconoscibilità, diciamo così, di anonimato, no? Dice, vabbè, ma io la butto, le faccio la domanda, la butto lì. Per cazzo, su cuore c'è nome, cognome e anche la professione. E allora sa coglione, c'è tutto su cuore. Sposati con quella di 23 anni che fece. esatto. Che lui è contento, sì, sì, cioè 23 anni. Poi dopo farà la domanda: ho 23 anni, sono nato munito, 1600 euro, ma posso mettermi con una di 41, esatto, con due figli? Esatto. La domanda sarà questa, cioè. E vabbè. Arriva il cane. Comunque anche Olivia conferma che non ce la può fare. Il tizio dei 1600 euro. Come si vive senza figli a 50 anni? Benissimo. Non so, questa è una domanda alla quale potrei rispondere io. Anche io. Cioè. Fra, se è vero. No, in realtà che si intende senza figli? Che non ce l'hai mai avuti oppure che sono fuori casa? Che sono morti. No, dai, che non ce l'hai, suppongo che non ce l'hai mai avuti. Allora è no, ragazzi, c'è una che ha vinto tutto, però seriamente, alla domanda: cosa è completamente legale ma sembra che non dovrebbe esserlo? Questa risponde: quello che sto per scrivere però dovrebbe sconvolgere. No, dovrebbe essere illegale concepire senza avere nessuna qualifica per essere genitori. Bravo. Scusa, ma io te la asciugo ancora di più, Francesco. Dovrebbe essere illegale concepire. In alcuni posti del mondo lo è. Sì. Beh, no, diciamo che in alcuni posti del mondo c'era un limite al concepiziazio. Esatto, adesso concepiziazio tolto, no. Insomma, sì, o l'hanno raddoppiato. Conviene colonizzare il mondo. Esatto, sì, ormai sono padroni del mondo. Secondo me fate figli, fate figli. Certo, dice Olivia, la qualifica. Sì, perché c'è proprio il patentino per essere genitori. Potrebbe. Facciamo i corsi, guarda, ragazzi. Il problema è che secondo me nel scuola vita per genitori, nel dramma, cioè nel senso, nell'affermazione estremamente becera, irrispettosa e anche, come posso dire, in piena violazione del concetto dei diritti delle persone, io penso che a volte su certe cose secondo me bisognerebbe averci una qualifica, cioè, perché se, si vede proprio la stupidità in giro, ragazzi. Io vedo una stupidità in giro che fa paura, cioè nel senso, se per guidare la macchina serve un'attestazione, a maggior ragione per far figli, insomma. Dice Olivia, ho capito, ma ecco perché non ho figli, mi manca il patentino. Guarda qua, siamo tutti spatentati, abbiamo una grossissima concentrazione di io non voglio senza patentino, non voglio offendere nessuno, ma oltre al patentino serve qualcos'altro, però poi dopo insomma aspetta. No, mi pare che c'è, però non ce l'ho con te. No, ok, no, era per dire, manca qualcosa. Volevo essere brutale. Anche il reddito di cittadinanza. Anche quello sì. Che modo te lo levano a te, guardi. A te te lo levano perché. E Michela ci dice: io ho guidato senza patente. Calla, succede. Continua a farlo, però non ditelo a nessuno. Infatti. Esatto, e le hanno fatto l'articolo 80. Che... Ah, l'articolo 31 anche. Quello è un altro. Va bene, dai, chi è che c'ha altre news sweats dei social network? Niente, io c'ho agente Alessa che continua a tormentarmi, però è timida, risponde e poi mi attacca la chiamata. Comunque a un certo punto, vabbè, ma ha scritto, cioè, manco po'. Aspetta. Che poi agente Alessa non è quella che ci c'ha da subito dopo che ha scritto Cristo Madonna nel gruppo. Sì, quella là. Comunque, ma ha scritto, io ho scritto: ciao bella, ciao, chiamata persa. Immagino che tu sia qui per gli investimenti. Io ho scritto: sì, quelli della Tesla. E vabbè, ma poi i mega super promo, pacchetto super primo disponibile. Investi 500 per guadagnare 5.000, investi 10.000 per guadagnare 30.000 euro. con quale ti piace iniziare? E io gli ho risposto, quello da 100.000 rubli. Ok, mi ha risposto, mi ha mandato un link, registrati e raggiungimi. E gli ho scritto, ma sei con le zinne da fuori? Sei riuscito a... Sei riuscito a registrare? No, perché sennò non vengo, no. Giustamente. Eh sì. E che risposto? No, gli ha mandato la foto che zinne da fuori. Sì, lì sarà iscritto probabilmente, però no. E quindi niente, Francesco stava, ci aveva questi 10.000 euro la volta. Non essere no, no, no, 100.000 rubli. È bello che hai detto ok, mi ha risposto. Che cazzo è che non so, quel tasso di conversione. Vabbè, va tutto bene. Vabbè, ma tu sei iscritto quindi? No, no, no, no. Bitcoin, real mining, qua no. Mi scrivo, scrivo no, no. I Bitcoin. No, non voglio arrivare così. Però per divertente. Cos'è quello? Ah no, cos'è quello? Ha risposto, dipende. Cos'è quello? Il mio pesce. Vabbè. Invece, Walter? Allora, chiudo la serata con questa perla, perché questa mattina Sirio Merenda, un account ironico che cito spesso, posta questa immagine di Giorgia Meloni che dice: quando vuoi fare propaganda per 20 minuti e invece tutti sono attirati dalle pigne tricolore che hai sulla scrivania. Voi guardate la foto, evidenziate le tre pigne. Io ho fatto un'innocente domanda che ha scosso anche un certo successo, che è: ah, non sono butt plugs? E lì possiamo anche chiudere. Sai che non sono aggiornato su queste cose. Sono le code che ti metti nel culo, più o meno così. Diciamo le simpatiche codine di palle. Non lo so. Cioè, sono diverse forme. E circa su internet. No, no, vabbè. Ok, no, stavo a leggere altre cose. Proprio una... ah, guarda, se vai su YouPorn c'è proprio una categoria, penso. C'è sempre una categoria. C'è sempre una categoria. Beh, sì, su... No, stavo leggendo, stavo cercando altre questioni, però insomma, vabbè, sì, su Quora. Allora, se il problema è che se apri il vaso di Pandora... Stava cercando su Quora che cos'è un butt plug. No, fai la domanda. No, comunque, no, il mio pesce mi ha risposto no, agente Alessia. Mannaggia. Hai un portafoglio o Binance? Quindi il pesce non va bene, mi spiace. Mi sta annoiando. Niente pesce. No, elimino chat, basta, mi annoiato. Non fai pesce con agente Alessia. Ma... Po. Ma che è? Pesce. Non so di chi state parlando, quindi. Ma io così. Sapete, io ignoro. Simone, sei troppe poche cose questa sera. Sì, questa sera sono un po'. Ma io, ragazzi, oggi sono traumato perché di solito è il martedì vado a fare la palestra di mattina. Invece, quest'oggi è lunedì di sera. E quindi, insomma, potete capire che. Non è assolutamente un plagio. Infatti io non vorrei dire questo. Tu me la vendi, cioè io la pago come copyright free. E secondo me se io la uso su YouTube me la segano subito, una cosa del genere. Però magari no, cioè nel senso, non voglio dire questo. Però insomma, ragazzi, anche questo lunedì purtroppo è mancato Puccio. E voglio organizzare un po' meglio questa cosa, perché devo veramente fare i jingle. E poi dobbiamo aumentare anche le rubriche. Insomma, cercheremo di espandere questa trasmissione. Suggeriteci dei social network che voi volete che noi andiamo ad esplorare. Ma soprattutto Telegram. Ma soprattutto anche se riuscite, cioè se avete delle idee su alcuni tipi di rubriche che possiamo perché inserire. Perché noi non ne abbiamo. Esatto, cioè, non abbiamo assolutamente idee. Esatto, bravo, non ci abbiamo mai avute. Vi ricordo che l'8 dicembre c'è la grande tombolata di Runtime Radio. Vi ricordo che domani mattina esce Gli Scimmioni Non Leggono Nietzsche con una puntata dedicata a Roma. E vi ricordo, insomma, che questa settimana è abbastanza placida. E martedì, mercoledì e giovedì ritorna Walter Sbano con Le Orazioni della Sera. Martedì e mercoledì, giovedì c'è la tombola. Ah, già, hai ragione. Scusa, vabbè, io vado in automatico. Tanto dobbiamo fare un documento dove ognuno va a consultare ogni tanto e vede che cosa deve dire e cosa non deve dire, perché siamo andati un po' a casaccio. Vi dico, insomma, che come abbiamo detto, Book ci saluta, ma tornerà un grande, nascerà un nuovo progetto, un nuovo progetto che attirerà secondo me gente, anche quella sbagliata, ma è fatta apposta, cioè è fatta apposta, anzi io tirerò fuori il meglio di me, quelle cose che pensavo quando avevo 20 anni e che oggi ci penso, dico, ma io pensavo sta roba, incredibile. E sintetizzerà il grande reset, insomma, podcast IGR. Il grande reset, che è, insomma, il super podcast con la cover verde. Guarda che Beppe Grillo ti denuncia. E vabbè. E come dicono in Francia, Beppe Grillo me fa una pippa. Va bene? Così. Tanto così. Saluto Marco Gualdi. Ciao. Ciao. Ciao. Saluto. Però Marco Gualdi, devi anche tu un minimo, cioè. Ma io ho impegno, guardo un sacco di notizie come questa. Google, siete ancora in tempo per chiedere il rimborso? Con pochi click vi riempite di nuovo il conto. Proprio addirittura, addirittura. Mamma mia. Beh, se hai comprato tante cose su coso, su Stadia, alla fine, comunque, in qualche maniera, sì, 50.000 euro di giochi potresti dire via. Tutto sommato, se hai speso 200-300 euro su Quora, sì, su Quora, su Stadia, su pure su Google, ma pure su Facebook. Se c'era gente che aveva speso 200-300 euro su Stadia, non lo chiudevano. Ma secondo me qualcuno ce l'ha spesa. Il problema di fondo è che ci stavano un sacco di cagate dentro. C'erano tutti i giochi da Disney, un sacco di hidden object, insomma, vabbè. Comunque, salutiamo Francesco Di Muro. E niente, buona serata. Niente. Walter Sbano. Ciao cari, e ciao a tutte le persone che ci hanno fatto compagnia in chat questa sera. Per esempio, l'ha fatto le nostre ricchissime quote rosa: Olivia, Michela, Olivia e poi si è ucciso quasi un Simone, non so perché. Poi per esempio il nostro Luca S che ci ha raggiunto inizio puntata, e tutti gli altri che vigliaccamente non lo hanno ammesso, esatto, ma ci sono. Esatto, ma io ho la voce da femmina, infatti. Buonanotte a tutti. Ciao.